vedo solo maschere di cera intorno a me. Il libro è sempre più comico se letto da un uomo libero. E brucia indomito il tempo, scandito da una sigaretta. Illuso, pazzo, egoista, sorrido di lei, la società. Prendo distacco da tutti i miei perché e vedo solo maschere. Que não sai.